Alla fine, nel XIX secolo, sia gli stati che esistevano nel secolo, sia quelli che si formano ex novo, diventano tutti stati-nazioni. Ma nel contesto di stasera ci interessa in modo particolare il risorgimento e che cosa capita in Italia. Nazione, allora, è il punto chiave. E nazione è l'oggetto anche delle discussioni in queste giornate genovesi. Che cos'è alla fine questa nazione? Beh, nazione è un termine che esiste da molti secoli, viene dal latino. Però c'è uno straordinario cambiamento che avviene tra fine XVIII secolo e XIX secolo. Per molti secoli nazione non è un termine che ha fatto parte del vocabolario politico. No, non entra nella discussione politica, che vi posso dire? Dal XIV secolo al XVIII secolo nazione indica delle comunità di persone in modo un po' vago, che hanno delle caratteristiche culturali, forse diremo anche oggi etniche comuni, ma mica non dobbiamo dire di questo. Solo che a un certo punto, con un processo per la vita lungo, che va dalla fine del XVII secolo fino alla fine del XVIII secolo, nazione entra potentemente dentro il vocabolario politico. Prendiamo una data simbolo, rivoluzione francese. Quando i rivoluzionari hanno bisogno di trovare un termine che indichi il nuovo soggetto che possiede la sovranità politica al posto del re, usano questo, nazione. Questo è il grande cambiamento. Cambia la topografia della sovranità. Invece della sovranità che scende dall'alto, dalla divinità, va al re, e dal re si diffonde poi alle istituzioni della monarchia dinastico-territoriale, i rivoluzionari inventano una topografia rovesciata, dal basso verso l'alto. Esiste un tutti che possiede la sovranità politica. Ma questo tutti bisogna chiamarlo in qualche modo. Bene, si chiama nazione. Se vogliamo trovare la data di nascita di tutta questa faccenda, la troviamo il 26 agosto 1789, quando i membri dell'Assemblea Nazionale Costituente approvano la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che all'articolo 3 dice: il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente. Ecco, chiaro, no? Nessun corpo, quindi nessun ordine, non i nobili, non le corporazioni, non il clero, nessun individuo, non il re da solo. Nessuno di questi possiede la sovranità. La sovranità politica è posseduta dal tutti, e il tutti è la nazione. Poi chi è che dentro questo tutti agisce davvero e ha davvero dei diritti è una questione ben spinosa che scandisce la storia politica dell'Occidente e oltre nei due secoli a venire. Ma intanto che è successo qualcosa di importante? È successo il fatto che la nazione entra dentro il vocabolario del politico, ma non in modo marginale, al centro del vocabolario politico. La nazione è il soggetto che possiede la sovranità. Tutti coloro in Europa che da allora in avanti vogliono, fra virgolette, fare come in Francia, cioè rovesciare le strutture del politico, cominciano a parlare il linguaggio della nazione. E questo succede anche nella penisola. I patrioti, i giacobini italiani, quando dicono bene, bisogna cambiare tutto quanto, dicono bisogna cambiare il nome della nazione. E questo è un meccanismo imitativo rispetto a ciò che accade in Francia, che fa sì che il linguaggio della nazione si diffonda. Poi c'è anche una dinamica reattiva. Quando gli eserciti rivoluzionari francesi e poi napoleonici dilagano per l'Europa e impongono l'autorità, il potere politico militare della Francia su altri territori, coloro che reagiscono di fronte a questa presenza straniera, chiamiamola col suo nome, una presenza imperialista, reagiscono cominciando a usare il termine nazione. I tedeschi, dopo Iena, i prussiani, in Germania, Fichte, Körner, cominciano a protestare dicendo: ma la nazione tedesca è sotto il tallone francese. In Spagna nel 1808 si fa lo stesso, si reagisce, c'è una guerra furibonda che dura anni contro la presenza francese in nome della nazione spagnola. In Italia le prime sette carbonare cominciano a fare una simile operazione, parlare della nazione. I due processi sembrano in contraddizione e invece entrano in cortocircuito. Facciamo come in Francia e facciamolo per la nostra nazione, non per la loro nazione. Bene, tutto bello, tutto funziona bene, solo che qua arriva il problema. Ma le nazioni quali sono? quante sono le nazioni? Se è così importante che ci siano le nazioni che abbiano tutto questo peso politico, quanti sono? Quante sono? E chi fa parte della nazione? Senza affrontare la questione generale, perché diventerebbe assolutamente impossibile, ma rapidissimamente concentrandosi sull'Italia. E se ci si concentra su ciò che accade fra fine XVIII secolo e inizio XIX secolo, si vede che all'inizio coloro che parlano il linguaggio della nazione oscillano molto. C'è chi parla di nazione piemontese, chi parla di nazione cisalpina, chi di nazione veneziana, chi di nazione napoletana, qualcuno parla di nazione italiana, e poi tutto questo sbarramento incredibile trova un punto d'ancoraggio nell'idea che esiste la nazione italiana e che bisogna fare qualcosa perché la nazione italiana abbia un proprio Stato. Come mai si impone la soluzione della nazione italiana invece che la nazione piemontese, cisalpina, toscana, eccetera, eccetera? Perché i patrioti, i giacobini, i primi critici della carta geopolitica della penisola, sono anche degli intellettuali o sono delle persone che hanno avuto un ottimo training educativo, hanno studiato. E hanno studiato usando come mezzo di comunicazione la lingua italiana, la lingua della letteratura italiana. Quindi fanno un'operazione che peraltro succede dovunque in Europa nel XIX secolo, dicono, c'è nazione là dove c'è una lingua. Quindi la nazione italiana è quella che domina perché nella penisola italiana domina la lingua italiana. Lo fanno anche, come dire, per nobilitare loro stessi, molti di questi sono scrittori, scrivono in italiano, c'è una lunga tradizione letteraria alle spalle, Dante, Petrarca, Boccaccio, eccetera, adesso non c'è bisogno che ve lo ricordi. Ma fanno questa operazione. Bellissima operazione. Solo che un'operazione che contiene un grado di forzatura assolutamente pazzesco. La nazione italiana esiste perché si parla la lingua italiana, ma siamo sicuri? Secondo i dati dei linguisti, da De Mauro in avanti, abbastanza direi persuasivi, già molti decenni dopo, nel 1861, cioè quando si è creato lo Stato-Nazione meglio d'Italia, gli italofoni, cioè quelli che parlano italiano per dire dammi un bicchiere d'acqua, ti voglio bene, ci vediamo stasera da sotto, sono tra il 2,5% e il 9,5% delle persone che abitano sul territorio della penisola. 2,5, 9,5, non di più. Poi c'è, si arriva al 20% di persone che sanno leggere e scrivere l'italiano, quindi anche se parlano qualcos'altro, capiscono almeno. Il resto, 75-80%, che fa? Il resto parla dei dialetti che sono quasi incomprensibili, quasi inconciliabili per strutture lessicali e sintattiche. E allora dove è la nazione italiana? Allora è chiaro che chi comincia a parlare di capovolgere completamente la carta geopolitica della penisola in nome della nazione italiana pone questo progetto su delle basi fragilissime. Le basi, se voi le mettete, guardate, visualizzate un attimo i Carbonari, 1820, quelli del conciliatore, quelli che fanno le congiure a Milano, i primi della Giovine Italia nel 1831. Quelli vogliono fare un casino incredibile, vogliono rovesciare completamente tutta quanta la struttura politica della penisola. In nome del fatto che c'è la letteratura italiana, che c'è Dante, che c'è Boccaccio. E per di più fanno delle cose eversive. Gli establishment degli stati della penisola li considerano sistematicamente dei pericolosi terroristi e fanno bene perché vogliono cambiare la carta della penisola, costruire uno stato unitario per la nazione e possibilmente anche dotarlo di istituti in qualche forma rappresentativi. Io dico che un osservatore esterno avesse guardato una situazione di questo genere non avrebbe scommesso un centesimo all'altezza del 1815 sulla realizzazione di uno Stato per la nazione italiana. Eppure succede una cosa che secondo me è straordinariamente affascinante, straordinariamente difficile da spiegare, da discutere, da studiare, ma appassionante da studiare. Succede che questo progetto, che sembra avere delle basi così fragili, poi alla fine riscuote un successo notevole, costruisce un movimento politico, che è un movimento politico nell'introduzione all'annale insieme a Paul baptismale italiano, nella prima metà del XIX secolo. Tante vuol dire centinaia di migliaia di persone. Se ti prendete l'arco di tempo fra 1796 e 1861, molte centinaia di migliaia di persone partecipano. Pensate solo a cosa succede in Italia fra 1846 e 1849. Il quadriennio di tensioni e il biennio di rivoluzione. Una valanga di persone scende in piazza a manifestare, le barricate, parte volontario, combatte, e molti simpatizzano e scrivono, giornali, opuscoli, tante persone. Allora, come succede questa faccenda qui, che una proposta politica sulla quale nessuna persona ragionevole avrebbe scommesso un centesimo nel 1815 riesce a portarsi dietro, a trascinarsi dietro centinaia di migliaia di persone? E badate, non solo nobili e alto borghesi, anche molti operai nell'ambiente urbano aderiscono al Movimento Nazionale Risorgimentale. Io penso che una spiegazione la troviamo se utilizziamo un strumento analitico che è stato forgiato da uno storico che io amo moltissimo, che penso sia uno dei più grandi storici del XX secolo, che si chiama George Mosse. È uno storico di origine tedesca, ma che ha passato poi attraversato la sua traiettoria di studioso negli Stati Uniti. Mosse, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama La nazionalizzazione delle masse, che se per caso non l'avete mai visto dovete sfogliare assolutamente, su come viene costruito il nazionalismo tedesco nello stesso periodo, dal 1813 fino al 1933. Mosse dice, ma qui all'inizio del XIX secolo, in Germania come dovunque, quindi anche in Italia, nasce una nuova politica. La nuova politica è quella che dice che siccome tutti possiedono la sovranità politica, e questo tutti è indicato col termine nazione, tutti devono essere portati dentro il campo della politica. Chi parla il linguaggio della nazione deve trovare degli strumenti che portino tutti quanti a giocare il gioco della politica. Tutti quanti, ma tutti quanti all'inizio del XIX secolo vuol dire una valanga di analfabeti, molte persone che non hanno nessun training educativo, nessuna formazione scolastica, che hanno studiato poco, e che anche se hanno studiato forse non hanno tanta voglia di impegnarsi in politica. Come si fa a tirare dentro tutta questa gente? Come si fa a convincerli dell'esistenza della nazione e della necessità di complicarsi la vita e di fare cose pericolose in nome della nazione? Si fa che bisogna, dice Mosse, fare una cosa completamente diversa rispetto a quella che i politici e gli intellettuali facevano nel XVIII secolo. Non parlare alla testa, parlare al cuore, non parlare alla ragione, parlare alle emozioni, non scrivere il trattato di filosofia politica, scrivere delle robe che colpiscano il cuore delle persone, facciano battere il cuore delle persone, facciano accapponare la pelle, sentire una tempesta di sentimenti che si scatena dentro. E spinge poi le persone a fare delle cose. Bello, come si fa a fare una cosa di questo genere qui? Mosse dice, fondamentale è l'estetica della politica. Fondamentale è trovare degli strumenti, che sono peraltro a disposizione, strumenti che servono a rilassarsi di solito, a passare un po' di tempo libero, ma bisogna cercare di infilare dentro questi strumenti di contenuti politici, romanzi, poesie, melodrammi, drammi teatrali, pitture, stampe in bianco e nero, statue. Tutti questi materiali possono, e servono per divertire le persone, possono veicolare dei messaggi politici, possono raccontare delle storie che hanno un contenuto politico dentro di sé. Qui c'è il collegamento con la dimensione culturale di cui ha lungamente parlato prima Paolo, cioè con il romanticismo. C'è un rapporto molto diretto, abbiamo visto, fra le esperienze politiche della prima metà del XIX secolo e il romanticismo. C'è anche da un altro punto di vista. Uno degli aspetti del romanticismo, degli intellettuali, degli scrittori, degli artisti che appartengono a questa esperienza culturale, è l'obiettivo di parlare al popolo, fare un'arte per il popolo. Per loro vuol dire l'arte per il massimo numero di persone. Per molti di loro, all'inizio del XIX secolo, siccome è cambiato lo statuto dell'intellettuale non trova più il suo stipendio stati europei dopo le guerre napoleoniche fa sì che ci sia dal 1815 al 1830 una delle prime grandi ondate di disoccupazione intellettuale in Europa. Bene, chi insomma vuole fare l'artista, lo scrittore, deve produrre per il mercato, scrivere romanzi per il mercato, scrivere poesie per il mercato, guardarmi per gente che vada a vedere quelle opere, pitture per gente che se le compri poi quelle opere. E molti intellettuali romantici, in Italia non altrove, trovano che raccontare storie della nazione, che raccontare storie che attraggono l'interesse di un pezzo importante del mercato, perché la nazione sembra loro avere un tema caldo, per le ragioni che vi dicevo prima, per l'esempio della rivoluzione francese, per l'impatto reattivo che l'occupazione napoleonica ha prodotto e perché la generazione circola. Ma che ci mettono dentro questi romanzi, questi melodrammi, queste pitture, queste poesie? Quali sono gli elementi, gli ingredienti che veramente fanno funzionare la macchina e permettono agli intellettuali risorgimentali di raccontare delle storie che facciano parte del cuore? Io direi che gli elementi, insomma, ci sarebbe bisogno di tempo per ragionarne in dettaglio, ma in grande sintesi gli elementi essenziali sono tre. Il primo è questo: presentare la nazione come una comunità familiare, come una comunità di parentela. Presentare la nazione come una comunità di discendenza. Insistere sul fatto che ciò che lega le persone è un evento biologico, la nascita, o spesso dicono loro stessi, il sangue, o spesso dicono loro stessi, la prima metà del XIX secolo, la razza. Certo, tutto ciò avrà il tono aggressivo, violentissimo che acquisirà alla fine del XIX secolo, ma questi dicono delle cose semplici. Non si fa parte della nazione perché si sceglie una nazione, si fa parte di una nazione perché si nasce dentro quella nazione. Poi va bene, uno può anche essere che parla il dialetto, non capisce l'italiano, ma solo perché eventi storici, un fatto avverso ha prodotto un risultato di questo genere qui. Ma c'è un nesso più oscuro, un nesso più profondo, e questo nesso profondo è il sangue, biologia, la famiglia, la parentela. Questo spiega perché il linguaggio del nazionalismo in Italia come altrove sia un linguaggio che viene molto declinato con i termini della famiglia. La nazione è la madre patria, i leader del movimento nazionale sono i padri della patria, i nostri connazionali sono i nostri fratelli e le nostre sorelle. La famiglia è considerata il nucleo fondante della nazione. Una famiglia che ha una terra che gli appartiene, secondo Mazzini, donata da Dio a ciascuna nazione. Sangue e suolo, direi. Questa è una cosa che fa, insomma, sulla quale c'è discussione, ma io propongo propongo sulla base di ciò che dicono i militanti, i leader del movimento risorgimentale italiano e degli altri nazionalisti europei. Questi la nazione la concepiscono in questo modo, come un fatto biopolitico, come un fatto biologico, naturale. Secondo punto, anche questo già ricordato da Paul, importante che le storie che vengono narrate siano storie avvincenti. Perché siano evincenti, uno dei meccanismi è la sovrapposizione dell'amore romantico con l'amore patriottico. Raccontare storie d'amore e caricarle di significati politici è essenziale. Io penso che il primo, in tutta Europa, perché non ho trovato altri esempi di prima, che si inventa questo meccanismo di sovrapporre l'amore romantico all'amore patriottico è Foscolo, con le ultime lettere di Jacopo Ortis. Qui prende i dolori del giovane Werther di Goethe, che sono romanzi tutto passionali, tutto amore, ma senza politica, e ci mette sopra la politica. E così si possono raccontare le storie di ragazzi, di ragazze, la possibilità o le difficoltà che hanno a fare cosa? A costruire il nucleo fondamentale della comunità nazionale, che è la famiglia. una coppia e la coppia si riproduce e la riproduzione consente alla comunità nazionale di sopravvivere. Questo meccanismo è anche una faccenda che spiega come mai in Italia come altrove le narrazioni, i romanzi, le storie, i melodrammi nazionalpatriottici siano così pieni di storie di stupro. Storie nelle quali il nemico, il brutale nemico, lo straniero, cerca di aggredire l'eroina della nazione. E vabbè, le storie sono varie. Io sono rimasto molto sorpreso quando ho scoperto questo aspetto. Ma mica in romanzi oscuri e nascosti, eh? Ettore Fiera Mosca di Massimo Razzelli, o Piccolo dei Labbri di Massimo Razzelli, i romanzi di Guerlazzi, o le poesie di Verceni. Dopo, se ci pensate un attimo, i romanzi dei romanzi del XIX secolo, che sarebbe Promessi Sposi, tutto ruota intorno a una storia di uno stupro tentato. Non è che Don Rodrigo con Lucia ci va andare a fare una passeggiata sul lago di Como, e quello la vuole, la vuole. Perché sono così importanti le narrazioni di stupro? Ma perché se la comunità nazionale è strutturata intorno al sangue, ha una genealogia, è assolutamente importante che questa genealogia e questo sangue si conservino, come dicono loro, peraltro puro, che non ci siano certi meticci, che non ci siano interferenze. Qui i ruoli di genere sono molto importanti. Nelle storie gli uomini combattono, difendono l'onore, che è un onore politico ed è un onore sessuale anche. Le donne italiane sono caste, pure, quando sono aggredite dallo straniero o si suicidano, o se sono stuprate muoiono per un breakdown psicofisico inarrestabile, oppure arrivano i nostri e le salvano. Questa faccenda è particolarmente importante in Italia, perché per secoli in precedenza l'immagine che viene data dall'Italia da molti viaggiatori stranieri è un'immagine di un paese in cui gli uomini non sanno combattere, sanno solo fare congiure nell'ombra, pugnalare alle spalle, e le donne sono persone di facili costumi. Viene completamente rovesciato il modello. Ma l'importanza delle narrazioni di stupro sta in quest'idea della nazione come genealogia. Ultimo punto. Anche questo prima evocato. È importante per gli intellettuali che costruiscono l'immagine della nazione della prima metà del XIX secolo in Italia costruire un'aura di sacralità quasi religiosa intorno all'oggetto politico che stanno offrendo. E lo fanno prendendo delle immagini della tradizione cristiano-cattolica e trasportandole completamente dentro il nuovo linguaggio politico della nazione. Due termini qui sono assolutamente fondamentali: sacrificio e martirio. Tutte e due parole che appartengono alla tradizione cristiana. Sacrificio è ciò che fa sacra un'azione o una persona o una comunità. Martirio, nel lessico politico del Risorgimento, vuol dire esattamente ciò che vuol dire nella tradizione cristiana, cioè testimonianza, dare testimonianza della propria fede politica. La massima testimonianza è il morire per la patria, è offrire la propria vita, il proprio corpo sull'altare della nazione. Ecco, questa operazione, prendere le immagini di santi martiri e trasferirle dai santi laici del Risorgimento, fare di Garibaldi un Cristo sofferente, fare dei militanti che muoiono dei santi, scrivere delle agiografie dei martiri del Risorgimento, cosa che si fa per davvero, non è che sto usando delle metafore. È un'operazione geniale, perché mette in sovrapposizione la tradizione alla quale tutti nella penisola della prima metà del XIX secolo si sono formati, che è quella cristiano-cattolica, con il nuovo progetto politico. Come dire, noi proponiamo una cosa straordinariamente nuova, ma nobilitata dal fatto di avere questa contiguità, questa vicinanza con la tradizione cristiano-cattolica. E anche qui si capisce come mai nel lessico nazionale-patriottico i termini termini che derivano dalla tradizione cristiana sono così importanti: sacrificio, martirio, martiri, fede politica, un termine che per noi è banale e ormai è istituito di elementi emozionali, nasce, è un'espressione che nasce allora, ma in questo senso, una fede quasi religiosa, qualcosa di para-religioso. Guerre sante, crociate sono quelle che si combattono, apostolato è il termine che Mazzini usa per dire ciò che noi diciamo propaganda. Il cuore sacrale di tutto ciò è il fatto che il nazionalismo dà una gerarchia, una risposta alla sofferenza e alla morte. Sa dire quali sono le morti giuste che possono essere effettivamente, giustamente attraversate, quali sono i dolori che è giusto soffrire e quanto a fondo bisogna soffrirli. Quanto sono meno rilevanti altri dolori, altre sofferenze. Soffrire per la nazione e ricordarsi della sofferenza di altri è un elemento di sacralità assoluta. Ecco, ora, adesso, mezz'ora è poco, quindi sto stilizzando molto, questi tre elementi, famiglia, sangue, terra, uno, amore, uomo, donna, sessualità, due, dimensione del religioso e della morte, tre, sono messi tutti insieme in queste narrazioni. E come capite sono narrazioni che parlano di elementi profondi nella formazione della personalità di ciascuno: la nascita, la sessualità, la morte, l'odio, l'amore, e parlano di cose che tutti capiscono perfettamente. Uno magari non capisce giusto il contratto sociale, ma se qualcuno gli dice guarda che la nazione è la tua famiglia, guarda che la nazione è la tua nuova religione, guarda che la nazione sono le tue donne, in un paese nel quale si combattono duelli per difendere l'onore sessuale, e fare un'operazione che scioglie ogni nodo, presenta la nazione come una dimensione che chiunque può capire benissimo, e molti la capiscono. Naturalmente dietro c'è anche un'altra parte di messaggio che adesso necessariamente trasfugo, cioè l'idea è che segui la stella della nazione e la tua sorte cambierà da così a così. Lotta per uno Stato-nazione unitario, per uno Stato italiano, e la tua sorte cambierà da così a così. Però gli elementi più importanti, secondo me, sono quelli che vi descrivevo: la nazione come comunità di discendenza, come parentela, la nazione nelle sue componenti di genere e la nazione come dimensione sacrificale. Tutto ciò non si perde con quel 1861. Tutto ciò continua a far parte della pedagogia della nazione anche dopo il 1861. Gli italiani e le italiane vengono fatte attraverso una pedagogia che incorpora questi elementi simbolici. Posso usare solo un trucchetto per cercare di dimostrare quanto sto dicendo. Il trucco è questo: leggere una pagina da cuore di De Amicis, 1886, il bestseller dei bestsellers dell'Italia liberale, un libro straordinario da molti punti di vista, ma anche l'apoteosi del nazionalpatriottismo di stampo risorgimentale. Allora, ricordate come il meccanismo, no? La terza elementare di Torino, anno scolastico 1881-82, Enrico Bottini che scrive il suo diario, il babbo che ogni tanto interviene con la mamma. Il babbo interviene un giorno scrivendo una pagina che si intitola L'amor di padre. E adesso leggo la diagnosi. Poiché il racconto del tamburino, sarebbe il tamburino santo ovviamente, ti ha scosso il cuore, ti doveva essere facile questa mattina far bene il componimento d'esame. Perché amate l'Italia? Perché amo l'Italia? E non ti si sono presentate subito 100 risposte. Io amo l'Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano, perché è italiana la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre venera, perché la città dove sono nato, la lingua che parlo, i libri che meditano, perché mio fratello, mia sorella, i miei compagni, e il grande popolo in mezzo a cui vivo, e la bella natura che mi circonda, e tutto ciò che vedo, che amo, che studio, che ammiro, è italiano. Capita la sequenza? Mia madre, il sangue, la terra, mia madre i suoi morti, mio padre i suoi morti, i nei fratelli, nei compagni, la lingua, la cultura, in una gradazione gerarchica straordinaria, straordinariamente chiara. Qui che nazionalità, qua è l'introduzione, qua o siamo dentro questo circuito, il cuore parte o stiamo da un'altra parte. Oh, davanti, Babbo di Arrigo, tu non puoi ancora sentirlo intero questo effetto. Lo sentirai quando sarai in fuoco. Parla con un bambino che ha 8-9 anni, lo sentirai quando sarai un uomo, quando ritornando da un viaggio lungo, dopo una lunga assenza, affacciando la mattina al parapetto del bastimento, vedrai all'orizzonte le grandi montagne al sud del tuo paese. Lo sentirai allora, l'onda impetuosa di tenerezza che tempirà gli occhi di lacrime e ti strapperà un grido dal cuore. Lo sentirai in qualche grande città lontana nell'impulso dell'anima, e ti spingerà dalla folla sconosciuta verso un operaio sconosciuto, un operaio perché la nazione è depressista naturalmente, perché è inciso, al quale avrai inteso, passandogli accanto, una parola della tua lingua. Lo sentirai uno sdegno doloroso e superbo che ti getterà il sangue alla fronte quando udrai ingiuriare il tuo paese dalla bocca di uno straniero. Perché noi siamo noi, e siamo fatti in un certo modo, e gli stranieri sono diversi da noi, a volte sono minacciosi. Lo sentirai, più violento e più altero, il giorno in cui la minaccia del popolo nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua patria e vedrai fremere armi da ogni parte, giovani a ricorrere alle giovani, i padri baciare i figli dicendo coraggio e le madri dire ai due giovinetti dicendo tu cede. Lo sentirai come la gioia divina sarà la fortuna di vedere di entrare nella tua città i reggimenti di velati, stanchi, cerciosi, terribili, con lo splendore della vittoria negli occhi e la bandiera e la gelata dei proiettili. Seguiti da un convoglio sterminato di valorosi che leveranno in alto le teste bendate e i pompierini in mezzo a una folla pazza che ricoprirà di fiori, di benedizioni e di baci. Tu comprenderai allora l'amore di padre, sentirai la patria valore e vivo. Ella è una così grande e sacra cosa che se un giorno io vedessi te tornar salvo da una battaglia combattuta per essa, salvo te e sei la carne e l'anima mia, e sapessi che hai conservato la vita, perché ti sei nascosto alla morte, io, tuo padre, e ti accolgo con un grido di gioia, quando torni dalla scuola, io ti accoglierei con un singhiozzo d'angoscia, e non potrei amarti mai più, e morirai con quel pugnale nel cuore. A un bambino di 8 anni questo mi sta dicendo.